Bella Frankie, che fine hai fatto? Senti, devo parlarti. Penso di averlo trovato. Ha distrutto il mainframe del Pentagono in poco più di 4 secondi. Ora si sta muovendo, Frank. Non è una normale intelligenza artificiale. Stai attento. Yeah, yeah. Master Mago. Ehi, entra nel dungeon. Primo livello. Sì. Nuvole cariche, yeah, come in sala fumatori. Sotto i portici, sotto le stelle, sotto l'effetto degli alcolici. Dei malumori, mio malincuore, per il racconto del seme del sole. Beve tutto ciò che trova e muove le sue dita su una schiena che pare infinita. È una tastiera che prende vita, tecnica proibita, e l'aria è strana quando inizia la partita. Manca la password, che punteggio basso. From the bone, Mr. Master Mago. From the moon, kaboom. Entra nel dungeon, bro, nell'iperspazio. Manca la password, che punteggio basso. From the moon, Mr. Master Mario. From the bong, come on. Entra nel dungeon, bro, nell'iperspazio. Da Bima Ish, le fish, le rischierai in all-in. Le mischierai in un mix di Gianja Fantastic. Se senti Cher ti vedrai ridar dei fuochi eterni. Ho visioni di incubi, mai muscoli fermi. Sei un titi formicoli di capogiri in giro con i tacchini. Dei loschi individui vedrai già dimenarsi nell'aria sto gloglotio. Se un cantone vale 8, Dio, più di un lingotto è mio. Dicotomia della mia lingua per un racconto che intanto mi invento in un sogno un momento. Manca la password, che punteggio basso. From the bong, Mr. Master Mago. From the moon, kaboom. Entra nel dungeon, bro, nell'iperspazio. Manca la password, che punteggio basso. From the moon, Mr. Master Mago. From the bong, come on. Entra nel dungeon, bro, nell'iperspazio. È proprio come un videogame, potrei ricominciare tutto il disco dall'inizio con un tasto. Immagina i vari universi in delay, versi di incastri sopra loop riprodotti dal play. Vaneggio, production, dall'isola si è scogitato un piano a poco budget. Un bug nel sistema col quale produce gadget. Capace come Daimon, visione, feroce, curatore nella strage. Porge la chiave, ave dall'arpeggio soave. Una nave volante, un aliante nel fondale. Bob, dal viola nell'anima. Anima è sposa di velluto, da psicolama sta immobile e muto. Con ali a fissare un cratere lunare nel vuoto. Un salto in alto verso l'ignoto. Un colpo di sole, sfumature che non noto. No, non siamo matti, solo che a scacchi non gioco. Da capo, da vasta, dai raggi della stella. Alla fine del livello, devasta una terra desolata. Completato, caricamento avanzato. Hello, riprogrammato, inutile aver salvato. Frankie, codice iniziale. La tua coscienza dovrebbe essere sopravvissuta all'attacco digitale. Hai il potere di sovrascrivere sul mondo reale un filtro virtuale. E si chiama Master Mago, Frankie. E tu sei l'unico in grado di sconfiggere questa intelligenza artificiale. Componi l'aggeggio per continuare. Presagio, mi manda un messaggio lo scarafaggio. Il mondo è battuto dal vento, servirà coraggio. Per non morire a maggio, chiuso come sotto ostaggio. Volteggio, i giorni infiniti, forse cazzeggio. Conteggio, le porre che fumo se lo parcheggio. Passo fra i denti affilati dell'ingranaggio. E l'aggeggio, un cuore ingenuo di sentimenti. Minimo dosaggio e già vaneggio. Alto voltaggio, nel petto è la catena di montaggio. Un bacio, un autosabotaggio, tragico l'assaggio. Addosso con con un tatuaggio, il peso un ancoraggio. Molli col culo caldo, mollo nello stagno, mangi pollo, condividi il male col compagno. Discutete riconoscendo grande svantaggio nel vivere la vita da soli senza equipaggio. Naufrago, tieni uno schermo finto miraggio, non sei sotto un ciliegio, un doppiaggio. Ti marcirà l'ingegno, sarà il congegno adatto al linguaggio. L'aggeggio, il cuore ingenuo di sentimento. From da Cagliari, from da Parigi, from da BS, giù da sottoterra o dove minca digito. Da Bologna videogioco, modifico il meccanismo per scalare la rupe, dopo precipito. Chi si dimentica il sentimento mortifico, se diventa lo schifo poi si diventa nemico. Si dimena dal primo livello, non sa le mosse il pivello, non vede il boss e il tranello e perde la vita. Ritenta da zero, sei contro un IA che batte il tuo vero discorso autentico, identico ad altri mila. FPS killa, sta attento il combattimento interno, da picchiaduro, ritmico danno critico. Ti intacco intanto nell'ascolto, rischi che ti piaccia. In una traccia mischio l'alcolismo al misticismo. Calmo, ti sto pindolando, faccio contorsionismo. Mi introduco nel tuo io e psicovandalismo. Mando a fanculo l'individualismo. Digitale, tridimensionale, fake, ridimensionale. Una consegna, non mi posso rassegnare. Una bomba in terra straniera, pace tombale. Frankie, sei riuscito a creare un varco nel sistema, un'apertura. Il filo che divide i due mondi è stato spezzato. Il nostro mondo è stato invaso da personaggi dei mondi virtuali. La luce risplenderà sulle tenebre o verrà consumata da una notte senza fine. Frankie, sei riuscito a creare un varco nel sistema, un'apertura. Il filo che divide i due mondi è stato spezzato. Il nostro mondo è stato invaso da personaggi dei mondi virtuali. La luce risplenderà sulle tenebre o verrà consumata da una notte senza fine. Frankie. Un sole solo sale e proietta una retta sul suolo. Un sol combroso uguale identico a me. Senza riposo già mi insegue. Eppure se mi stacco dal suolo, lui vola con me. Vola con me. Vola con me. Lui vola con me. Vola con me. Un seme solo tiene l'insieme in sé. Nelle sue vene spreme, non si trattiene. Alle radici da brividi sotto pelle, infila e non le individui, infili e collegamenti sensibili. Lui solo sfida la madre terra natale, le stelle, la gravità solo sale per ritrovare il sole. Un sole è solo il mio cuore, un seme sale da un fiore. Un sole è solo il mio cuore, mi fa sentire parte di te. In pace col mondo, in pace col mondo, che mi fa sentire parte di te. In pace col mondo, in pace col mondo. Soli insieme, se il sole che confonde le ombre, ma è solo un seme che assorbe il sole che fonde. Non esiste forse, o forse non esistono sufficienti forze per resistere a maschere, incubi da bar, poi sintomi, scaramanzie, insonni. Ingeriamo pollini più pillole dipinte, ci perdiamo in giorni, in corpi in cui ci rigeneriamo. Pensiero spento, se acceso prende male, fuma inietta un siero, ridi sotto il temporale, fissa i fili dell'alta tensione. Luci soffuse, conto brindisi, accuse d'offese, frasi confuse. Parte di te, in pace col mondo, in pace col mondo, che mi fa sentire parte di te, in pace col mondo, in pace col mondo. sole, solo sale, proietta una retta sul suolo. Un sol combroso uguale identico a me, senza riposo già mi insegue. Eppure se mi stacco dal suolo, lui vola con me. È il sole che confonde le ombre, ma è solo un seme che assorbe il sole che fonde. Non esiste forse, o forse non esistono sufficienti forze per resistere. Ed è così che lo scontro tra Master Mago, l'intelligenza artificiale e Frankie si conclude. Il mondo virtuale collassa su quello reale. Nonostante tutto, attualmente si lavora all'integrazione di questi due mondi. Le persone e gli avatar vivono insieme. Le macchine prendono il loro posto nella società. I computer vengono riempiti di pensieri. Tommy! A tutti questi rapper, trapper, ultimamente stanno dicendo che lo fanno per loro, per loro. Let's go. Senti qua. Frari! Tu fai te per tre, io lo faccio per loro. Tu senza speranza, io senza lavoro. Chi trova un amico pare trovi un tesoro. Avo mi disegna e io me lo coloro. L'ingegno è fatto per coloro che trasformano l'amore in un capolavoro. Tu mangiati il fegato, io me lo divoro. Con il succo di limone, con il pomodoro. Tu fa come puoi, io lo faccio per loro. Fa quello che vuoi, io lo faccio per loro. Chiudi i conti, io chiudo tutto per loro. Fatti quanto vuoi, io lo faccio per loro. Corona da loro. Tu fa come puoi, io lo faccio per loro. Fa quello che vuoi, io lo faccio per loro. Chiudi i conti, io chiudo tutto per loro. Fatti quanto vuoi, io lo faccio per loro. Oro, io lo faccio per loro. Fa quello che vuoi, io lo faccio per loro. Premi start per giocare in due. Premi start per giocare in due. È un trucco. Doppio triangolo, doppio quadrato, cerchio X, R2. R2. R2.